floating forever and a day, drifting sideways. In a world you'll never understand. Well, I'm floating forever and a day, drifting sideways. I'm lying here like a wave. Eric Koffer. Questo lo so. notte fingo di ignorare l'imbroglio di cui sono vittima. Per quieto vivere, per carità cristiana, oppure per disgusto. E così i ruoli si invertono e il furbo divento io. Si può dire che faccio il fesso per non essere fatto fesso, ma il vero fesso è chi crede di avermi fatto fesso. Perciò. Musicale, standardizzare. I can't. I constantly corrupt and wrap all your beauty and love, digital overload.